che mi cercava sempre in rosa, piena freschezza e tutta simpatia. Non sta passando chi perché sta via, chissà che l'hanno ritta contro me. E mi passano per niente tutte compagne suoi a una, ma che sfortuna che la derrosi, che la derrosi, io non avevo più. Saccio non mamma, non saccio a casa, a chi ci fa che di che voglio bene, ma che vorria vedere, ma non c'è vena, nessuno è più sincero attorno a me. E mi passano per niente tutte compagne suoi a una, ma che sfortuna che rose, che la del rose, io non avevo. E mo di rosa mi ha stato spino e mi ha lasciato senza un saluto. La nata amore forse mi ha creduto, ma chi sarà chi stata già sapere. E mi passano per niente tutti gli amici miei a una, ma soltanto occhio sincero, occhio sincero, io non ne vedo più.